Tempo di Sport con Carlo Genta. La squadra del Napoli è sempre stata la seconda squadra italiana dopo la Juventus, a livello di forse anche la prima come capacità di coinvolgere emotivamente tutti quanti. Ci dobbiamo dire con grande umiltà, noi ricominciamo da zero. Piantanini in redazione, Matteo Comes che saluto alla sua prima regia, al suo primo viaggio con A Tempo di Sport. Non so se sia tifoso del Napoli. Io so, quella che avete sentito è la voce di De Laurentiis il giorno in cui prese il Napoli. Io l'ho pensato, l'ho detto molte volte anche prima, e adesso ho le prove, ho la prova, una prova a forma di coppa, qualcosa di materiale che si può toccare, guardare, alzare, sollevare tutte le volte che si vuole. Ho la prova che questa sia stata la più grande stagione del Napoli dall'ultimo scudetto, quello di 22 anni fa. Saluto e ringrazio Francesco De Luca, storico inviato del Mattino. Ciao Francesco e grazie. Buongiorno. Dunque, non so se sei d'accordo con me, le prove adesso ci sono. C'è qualche voce contraria, chi dice però il terzo posto e però l'anno prossimo non facciamo più la Champions. C'è qualcuno che non è mai contento. Questo qualcuno che non è mai contento farebbe bene a cambiare idea, secondo me. Ma guarda, io dico che insomma, il percorso del Napoli, De Laurentiis, trattino Mazzarri, è stato un percorso esaltante. E Napoli parte nell'ottobre del 2009 dal sest'ultimo posto in classifica e riesce a conquistare tre qualificazioni europee, due in Europa League e una in Champions League. Riesce a vincere la Coppa Italia, cosa che non accadeva da 25 anni, l'ultimo trofeo, come tu hai ricordato, 22 anni fa, con la Supercoppa Italiana. Sì, le cose possono essere viste anche sotto un'altra luce, sotto un altro punto di vista, però credo che insomma il Napoli il prossimo anno, se si robustirà, se insomma si completerà, darà a Mazzarri la possibilità di avere delle alternative valide e di trovare ovviamente un giocatore valido per rimpiazzare Lavezzi, potrebbe giocarsi un proprio scudetto, perché no? Insomma, sì. Secondo, io credo che al di là della qualità dei giocatori, il grande vantaggio della Juventus in questo campionato, in questa stagione, è stato quello di non aver fatto le coppe. Il Napoli invece ha dovuto, ci ha rimesso dal punto di vista delle energie fisiche e mentali tanto. Beh certo, ha lasciato molto per strada, arrivato, Francesco. Questo spiega perché è arrivato al quinto posto, pur cercando di giocarsela fino alla fine. Sicuro, ha lasciato, guarda, io credo che abbia lasciato il terzo posto sulle strade d'Europa, però sportivamente, non calcisticamente, ma sportivamente, ha giocato una Champions League che è stata una vittoria, ha battuto il City, campione d'Inghilterra, ha battuto il Chelsea, ora sappiamo campione d'Europa, ieri sera ha battuto la Juventus in battuta. Francamente la stagione del Napoli è stata meravigliosa anche in quelle competizioni in cui non è arrivato ad alzare la coppa come in questo. No, su questo non ci sono dubbi. Credo anche che quel maledetto 14 marzo allo stadio del Chelsea a Stamford Bridge la squadra abbia subito la pressione, sì, di chi si trova in una situazione di vantaggio, perché obiettivamente il Napoli lo era, avendo vinto 3-1 all'andata, e non riesce a gestire questo favore, questo vento favorevole. Va in difficoltà, tra l'altro, su un campo molto difficile. Insomma, d'altra parte il Chelsea insomma è arrivato alla finale e poi l'ha vinta ai calci di rigore. No, credo che la crescita, perché Mazzarri sottolinea spesso e volentieri questo aspetto della crescita, credo che la crescita del Napoli stia procedendo molto bene, e mi auguro che questo connubio con De Laurentiis, tra Mazzarri e De Laurentiis, anche se tra alti e bassi, possa procedere, perché ha portato veramente dei risultati brillanti. Sì, Francesco, però adesso è il momento delle scelte, ma proprio di vita, no, io credo, è il momento delle scelte di vita, perché si tratta di decidere se fare un altro gradino, quindi se cambiare politica, la politica del Napoli e della Laurenti ne ha sempre fatto vanto, è quello di un salary cap, di un tetto degli ingaggi che vale anche per le superstar. A questo punto è chiaro che Lavezzi verrà ceduto, credo con buona soddisfazione di entrambi, cioè credo che, come ha detto Maradona, questa cessione di Lavezzi vada bene ad entrambe le parti, anche se so che i tifosi non sono d'accordo. A questo punto si tratterà di accontentare Cavani, anche dal punto di vista economico. Cavani che ha già cominciato, prendendola alla lunga con le Olimpiadi, a fare i capricci, ma è chiaro che sappiamo cosa c'è dietro queste scaramucce. Oppure cedere le stelle e ripartire con la stessa politica. Credo che sia il momento del bivio, che questa ai piedi di questa coppa ci sia un bivio. Sì, io la penso così, credo che sia opportuno, quando ci sarà questo confronto tra De Laurentiis e Mazzarri per programmare la prossima stagione, sia opportuno chiarirsi su punto. C'è una differenza di valutazione tra l'allenatore e il presidente. Al di là del costo dei giocatori, naturalmente Mazzarri vorrebbe dei giocatori di maggiore esperienza, non parlo della caratura tecnica, ma comunque dei giocatori abituati a confrontarsi ad alto livello, soprattutto in campo internazionale. De Laurentiis è per la linea dei giovani, perché ritiene, sulla base dei tre colpi che ha fatto nel 2007 con Pierpaolo Marino, quando prese Amsic, il Gargano, complessivamente per 16 milioni di euro tutti e tre, ritiene che questo sia uno schema che si possa riproporre, eventualmente poi migliorando l'ingaggio di questi giovani giocatori nel corso degli anni, se questi giocatori lo meritano. Sì. Ritiene che si possano fare altri colpi, tipo quello di Cavani, che complessivamente è venuto a costare al Napoli, credo, una quindicina di milioni di euro pagati in due anni. Parliamo di un giocatore che ha segnato 60 gol in due stagioni. Però questo è sempre possibile. Io credo che forse sia arrivato il momento per il Napoli di dare la svolta, cioè di prendere dei giocatori di maggiore esperienza, di una maggiore caratura, di una maggiore personalità. Vedremo sul mercato cosa accadrà. Grazie Francesco, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a Francesco De Luca. 800 24 00 24, numero verde. Adesso voglio sentire le vostre voci. Da un sacco di messaggi leggo che c'è chi vorrebbe il pallone d'oro a Drogba. Beh, è un candidato assolutamente credibile, potrebbe alzare il pallone d'oro in Cina, perché Drogba andrà via, andrà in Cina a giocare anche lui con Lippi, che tra l'altro ieri ha vinto 1-0, andrà però a Shanghai, nella stessa squadra dove gioca Anelka, quindi la nuova frontiera è quella. Insomma, c'è chi vuole dare il pallone d'oro a Drogba, ma prima degli europei mi sembra un po' prestino per la candidatura. C'è chi dice che era scritto nei libri della Federcalcio che la Coppa doveva vincere a Napoli, ma avete visto l'arbitro scandaloso, non si dice nulla. Insomma, parliamo anche di Briga, l'ultima partita tra l'altro della sua carriera, probabilmente non ne sentiremo la mancanza. Ieri sera non ha certamente diretto bene, però c'è anche da dire, caro Beppe da Bergamo, chiaramente tifoso juventino, che la Juventus non era la solita, ma Conte l'ha detto ieri sera, non era la solita, forse troppe bollicine che giravano in testa, e questa era comunque, dai, lo sappiamo bene, una delle grandi incognite nella settimana dell'avvicinamento a quest'ultimo impegno. Molti che scrivono, anche qualcuno che parla, per fortuna, cosa che preferisco. 800 24 00 24, numero verde. Giorgio Reggio Emilia: certo che quando giochi una finale contro Babbo Natale si vince meglio, non saprei perché Babbo Natale, se mi chiama Giorgio me lo spiega, preferisco. C'è chi sottolinea che il periodo, che è la primavera del bianco e dell'azzurro, Chelsea-Napoli-Pescara, che è andato in Serie A, e quindi può immaginare che anche l'estate possa colorarsi, possa rimanere tinta di quei colori. Ce lo auguriamo tutti, ovviamente facendo riferimento all'Italia, che oggi insomma comincia la sua avventura. Prima di Antonio e Vittorio, però, io voglio fare un collegamento. Voi siete qui, è il programma di Matteo Caccia, del mio amico Matteo Caccia, come sapete bene. Ma dov'è lui? Guarda, adesso mi trovo nell'androne del Foro Italico durante la finale. Siamo 3-2 per Nadal e mi tocca anche parlare piano perché stanno ricominciando. La prima cosa che mi viene da dire, Carlo, è se siete a Roma nei pressi del centrale del Foro Italico, venite perché entrate gratis, praticamente non vi chiedono il biglietto. Non c'è nessuno. C'è pochissima gente, e però adesso devo uscire, altrimenti si sente tutto. In pratica la partita adesso è sul secondo set, è finita 7-5 il primo per Nadal. Alla fine del set, un erroraccio di Djokovic, che ha perso su una palla corta, ha mandato retta una palla, ha spaccato la racchetta contro la seggiolina dell'arbitro. Lui è nervosissimo, infatti non si capisce bene cosa stia facendo. Quando è in partita gioca, quando invece è distratto continua a allargare le braccia, a guardare verso la sua panchina. Nadal invece è il solito ragazzone che si mette una specie di corazza e va in campo, e non succede niente intorno a lui se non la palla che gli arriva incontro a 200 all'ora. Djokovic non batte un servizio al di sotto dei 190 all'ora. È uno spettacolo incredibile. L'unico peccato è, devo dirla, guarda, e la dico davvero un po' con la mare in bocca, perché io ero qui ieri ovviamente per vedere la finale, sì. E c'è stato un po' la nostra tipica disorganizzazione, per cui abbiamo aspettato sotto la pioggia, abbiamo visto le due donne che hanno giocato con interruzioni di 2 ore tra una e l'altra, però hanno finito sto tie break sotto la pioggia, ha smesso di piovere, abbiamo aspettato 1 ora e mezza sugli spalti e dopo un'ora e mezza ci hanno detto andate a casa, tornate a mezzogiorno, con la gente che diceva, sai, io di solito il mezzogiorno del lunedì lavoro, di solito. Indovina per chi faccio il tifo, Teo? Per Djokovic. Naturalmente, Sava Sandir. Naturalmente, è tutto il Foro Italico per Djokovic, è per questo che io non riesco a fare a meno di fare per Nadale invece, come al solito. Quindi diciamo, se voi siete qui, nei pressi del Foro Italico, se voi siete qui, dove Matteo Caccia, andate perché entrate gratis. Perché sì, perché di fatto in qualche modo riuscite a entrare. Io sono qui, ma ora mi tocca correre alla sede di Radio 24 in Piazza Indipendenza, se non vado in onda alle 4. Perché devi essere lì? Perché ti saluto. Ciao Matteo. Ciao Carlo, grazie. Ciao, grazie a te Matteo Caccia. Antonio da Pescara, buongiorno. Sì, pronto. Pronto. Buonasera, dottor Genta. Buonasera. Salve, chiamo per un pizzico di polemica, pizzico. Ma anche di più, quella che vuole. Per ricordare che a novembre alcune previsioni di esperti, tra cui anche la sua... Sì. Cioè, sì, verissimo. Sia per il campionato che, verissimo, non ci credevo. Che per la Serie B, soprattutto. Guarda, io per sbaglio. Pescara e per la Serie di Zeman, sono Pescara, quindi diciamo Pescara a fuoco di paglia e Milan favoritissimo. Invece, ma sai che il Milan, Antonio, lei ha ragione, fa benissimo a ricordarlo, io non mi sottraggo a quanto dissi, io continuo a pensare che il Milan fosse, anche adesso, penso che il Milan fosse favorito per lo scudetto. Non credevo nel Pescara, non sono uno zemaniano convinto, non sono neanche uno zemaniano per la verità, sono stato smentito, sono molto contento di essere stato smentito dai fatti, perché in un campionato un po' piatto come quello della Serie B, questo Pescara è stato veramente un raggio di sole, c'è qualcosa che vai a vedere o che guardi in TV perché è bello e divertente. In un contesto piuttosto noioso, torno a ripetere, non pensavo durasse fino in fondo, perché per ogni squadra di Zeman io attendo l'epilogo, so che ci sono dei momenti di grande spettacolo, di grande esaltazione, di grande divertimento, cui spesso però seguono dei lunghi passaggi a vuoto. In questo caso bravissimo lui, ma bravissimi soprattutto i ragazzi del Pescara, perché non dimentichiamo che questa squadra, al di là di Zdenek Zeman, ha una grandissima qualità, come il mercato dimostrerà, come Prandelli ha già dimostrato, come sappiamo tutti, no? E come sa benissimo anche lei, Antonio da Pescara. Non è stata l'unica previsione che ho sbagliato, le ho sbagliate praticamente tutte. Non credevo nemmeno in Antonio Conte al primo anno da tecnico della Juventus, l'ho già detto molte volte, ho già fatto ammenda e ho messo sulla pubblica piazza il mio grave errore. Non credevo in Antonio Conte come allenatore di questa Juventus all'inizio dell'anno in grandissima difficoltà visto il progresso, e invece anche qui, bam, smentito proprio in maniera totale. Mi diverto così, continuerò. Vittorio da Parma. Continuerò a sbagliare, continuerò a dire la mia e a sbagliare. Vi avverto subito. Ok, infatti per il prossimo anno fammi la cortesia di dire che il Napoli non è vincente per il campionato, grazie. Perché? No, così magari lo vince. Ma no, ma quello che voglio dire io sul Napoli, adesso vediamo come esce dal mercato. Vale Vittorio quanto io stavo dicendo prima, è davanti a un bivio il Napoli, cioè c'è questa coppa e ai piedi della coppa ci sono due strade. Una è quella in salita, naturalmente, per De Laurentiis che deve cacciare il grano. Di confermare Cavani, la Vezzi è un'altra storia e ripeto, è fisiologico che la Vezzi nasce in Napoli. Una è quella in salita di fare una squadra ancora più competitiva, perché è evidente che in molti reparti, a partire dalla difesa, questa squadra non è competitiva ai massimi livelli, e l'altra, che è ugualmente legittima e plausibile, che si è dimostrata vincente, è quella di continuare in una politica che è quella della grande attenzione all'ingaggio dei giocatori, della valorizzazione del grande lavoro dirigenziale, dell'acquisto di giocatori da far crescere, da far esplodere possibilmente, da monetizzare di conseguenza, e quindi mantenendo questa dimensione. Io dico soltanto che insomma l'anno prossimo vedo un grande vuoto di potere alle spalle della Juventus, perché il Milan è da rifondare, l'Inter è da rifondare. Quanti quattrini ci siano in cassa nel Milan e nell'Inter ancora non lo so, ma credo non tantissimi. Dunque ci sarà una Juventus che rischia di aprire un miniciclo, una Juventus che comunque partirà l'anno prossimo da grande favorita. Sono molto curioso di capire se alla Juventus si aggiungerà la compagnia del Napoli, e questo a me sinceramente piacerebbe molto. Adesso un altro amico ascoltatore, anzi ospite particolare, perché è colui, ci abbiamo già chiacchierato l'altro giorno prima che capitasse l'evento, è l'ascoltatore che ieri è stato il direttore sportivo della Liquigas sull'Ammiraglia, Franco Dalbello, cioè l'ascoltatore che ha vinto questo premio, questo concorso che abbiamo lanciato sul Giro d'Italia. Buongiorno Franco. Buongiorno, buongiorno. Adesso voglio sapere com'è andata, naturalmente. Ma a parte, insomma, direttore sportivo è una parola grossa, sono stato ospite. Capitano, non pedalatore. Sono stato ospite, sì, di una squadra veramente in gamba, veramente particolare, che mi ha ospitato veramente in maniera gentile, ed è stata un'esperienza diversa. Non dico, cioè, vedere la corsa in un'altra maniera. Completamente diversa. La corsa l'ho vista dopo in TV, insomma, la tappa, perché lì ho capito cosa vuol dire la carovana, ho capito cosa vuol dire tutti quanti assieme a fare sport, sì. Non solo la squadra che io ero in auto con Alberto Volpi, sì. La solidarietà che c'è tra tutti gli sportivi, tra tutte le persone. È un gioco di squadra, Franco. Ciclismo è un gioco di squadra. No, ma non della squadra, non della Liquigas. È uno sport di squadra. Parlo di tutti. Quindi esperienze indimenticabili, insomma. Sì, guarda, veramente a livello di sport, è un'esperienza che io non ho vissuto neanche con i pulcini del calcio, per dire, quando andavo a vedere mio figlio. Una cosa un po' diversa. Allora facciamo così, lo rifaremo, proveremo a rifarlo questo concorso, in modo da poter mandare qualcun altro come te su qualche ammiraglia al seguito di corse ciclistiche. Io ho seguito diverse edizioni del Giro d'Italia e so che è qualcosa di seguire le corse, in quella maniera così particolare non mi è mai successo, però seguire comunque i palpiti di una grande corsa a tappe è qualcosa di davvero unico. Bello. Grazie Franco, buon lavoro. Un secondo a questo solo punto. Che dimmi. Sono sempre contatto da tifoso dell'Hellas, sì? Volevo fare tanti complimenti al Napoli per la Coppa Italia. Bravissimo. E poi dai, di tu che li azzecchi tutti, chi sarà, sì, la terza squadra che andrà in Serie A ad accompagnare il Torino. Ti faccio contento, ti faccio contento te e tutti i tifosi dell'Hellas e anche quelli del Sassuolo. Io dico Sampdoria, così almeno ci mettiamo una croce sopra, cosa dite? No, Sandoriani, bravi, magari qualche volta ci prendo, come mi ha sottolineato prima un ascoltatore, che avevo parlato di divisione della posta qualche tempo fa tra Napoli e Juventus, all'una lo scudetto, all'altra la Coppa Italia, e lì ci ho preso. 800 24 00 24, ci sentiamo dopo la borsa. Eccoci tornati, ci sono diversi modi di fare i soldi con lo sport. Uno potrebbe riguardarmi, perché adesso cominciano ad arrivarmi i messaggi di che l'Inter non vincerà l'Europa League e il campionato. Questo scrive un interista, avendo detto che non ne becco una neanche a morire. Vabbè ragazzi, facciamo così, vi do l'IBAN, mi inviate un po' di soldi e poi dico, e poi accontento tutti i tifosi d'Italia, perché così gratis non vale neanche prendere Verratti, che anzi costa un mucchio di soldi. Stavo leggendo che dopo le ultime due settimane in cui ha esploso, ha portato il Pescara in Serie A, è stato convocato da Prandelli, che oggi ha iniziato la sua avventura, ebbene dopo questo mese magico, due settimane magiche eccetera eccetera, adesso chi vuole Verratti deve scucire il grano. Quanto? 15 milioni di euro dicono in ambienti pescaresi. Ma c'è anche un altro modo per fare i soldi con lo sport, ad esempio mettere le torce olimpiche e le torce dorate, le uniformi ufficiali indossate da alcuni intraprendenti tedofori all'asta su eBay. Sono spuntate qua e là e valgono decine di migliaia di sterline. Complimenti. Tutto questo è sport. Nel weekend è successo anche altro rispetto a quello di cui stiamo parlando. Sentiamo. Come soddisfazione me l'ha dato la squadra, anche la società, che mi ha messo in condizioni di lavorare al meglio. Poi nel calcio non si sa mai, tra i giocatori che vanno e vengono e tra gli allenatori che vanno e vengono, non si sa mai finché non è concluso. E finora penso che non è concluso né la vendita dei giocatori né il mio allontanamento. Mi ricordo perfettamente di aver detto: non vorrei essere ricordato per quello che ha portato il Torino in Serie A, questo lo possono fare in molti, ma vorrei magari essere ricordato per quello che ha riacceso, lo chiamai una cellula granata, che era a detta vostra era completamente morta. Ecco, mi sembra che abbiamo centrato i due obiettivi, no? Molto importante essere sul 2-0, sono molte poche serie che si sono concluse partendo da un 2-0 in senso opposto, per cui valutiamo molto positivamente la vittoria. Sapevamo che la Reier poteva giocare molto meglio che due giorni fa, è piena di giocatori esperti, orgogliosi, veterani, con grande talento. La gara 2 è sempre una storia diversa e l'inerzia si ribalta. Noi oggi siamo stati bravi a prendere l'iniziativa e a mollarla al 40esimo. Abbiamo giocato 40 minuti, abbiamo fatto le nostre cose con grande dedizione, sacrificio e attenzione. Una partita molto intelligente, senza tanti fronzoli, molto concreti. Li avrete riconosciuti, e se no ve lo ricordo io: Zeman, che è andato in A col Pescara, Ventura, che è andato in A con il Torino, poi avete sentito Scariolo, allenatore dell'Olimpia Milano, che ieri ha battuto la Reier Venezia e si è portata 2-0 nella serie dei playoff scudetto. Stessa storia per Trinchieri, allenatore di Cantù, che ieri ha asfaltato la Scavolini Pesaro, 2-0 anche questa serie. Volevamo mettere anche Valentino Rossi, invece ne parliamo con Alessandro Pasini, inviato del Corriere della Sera. Ciao Alessandro. Ciao, buongiorno a tutti. Prima di Vale, che impressione ti ha fatto l'altra sera a Monaco di Baviera? Vedere un allenatore italiano, ma un allenatore che è stato messo lì a tappare un buco, che alza la Champions League di tutti i sogni di Abramovic, la Champions League per cui Abramovic ha pagato 2.500 milioni di euro. Beh sì, è stato fantastico. Di Matteo, che mi sembra più che un italiano, come si usa dire con un'espressione un po' retorica, ma secondo me in questo caso azzeccata, è un po' un cittadino del mondo, no? Del calcio, sì. Perché poi ci ha lasciato da tanto e basta sentire come parla l'inglese e quindi questo dice tutto. È stato veramente fenomenale, l'uomo che ha realizzato i sogni di Abramovic costando pochissimo, e per questo che non gli piace. Ma certo, per questo che lo manda via. Credo che nel fondo del cuore Abramovic sia un po' arrabbiato, perché dice: guarda con chi mi è toccato vincere la cena. È un paradosso, però è stato fantastico. Io devo dire, come penso molti, no? Ero neutrale, ma alla fine mi sono esaltato per questa impresa di una squadra che a febbraio era a pezzi, no? con questo Villas Boas, il presunto mago, insomma, le spese, eccetera. D'altra parte, se prendi il mago il mago e hai i senatori, qualcosa è destinato a non funzionare, perché o accontenti i senatori, come ha fatto intelligentemente Di Matteo, oppure il mago cerca di valorizzare se stesso e i senatori gli danno contro. Storia di sempre. Molto bene, credo, a livello psicologico, dimostrando tra l'altro di essere, appunto, no, molto acuto, molto intelligente, uomo di calcio e di spogliatoio, perché questo contava per riprendere quella squadra lì, quindi io ci penserei due volte a lasciarlo andare, ma io purtroppo non sono Abramovic, neanche te, per ma cui... ci ho già pensato, andrà intanto Di Matteo intanto andrà via, però va via portandosi dietro l'FA Cup, la Champions League, e quindi un palmarès comunque da allenatore. Pare che vada all'Aston Villa, mentre Drogba va in Cina insieme ad Anelka e a Marcellone Lippi. Magari tra un po' ci andiamo anche io e te, appena ci chiamano. Cinese è facile, il cinese si impara in un attimo. Si impara in un attimo e soprattutto girano molti verdoni. Poi andrà via Fernando Torres, non credo in Cina, ma da qualche altra parte. Questo Chelsea vincere e dirsi addio dopo 2.500 milioni spesi, adesso Abramovic metterà quelli che mancano. Alessandro, invece, io sono molto incuriosito dal momento che sta vivendo il moto mondiale. Ieri Valentino Rossi si è tolto una piccola soddisfazione, secondo, il baby pensionato Stoner messo dietro, però sono molto curioso di vedere che cosa accadrà in futuro, anche con la storia dei diritti televisivi. Guarda, in futuro sicuramente accade, per quanto riguarda Valentino, che sull'asciutto si tornerà a una normalità, non vorrei dire mediocre, ma insomma la normalità di prima, per il momento, e questo l'ha detto anche lui. Per quel che riguarda il motomondiale invece io vedo molti movimenti interessanti, perché già l'addio di Stoner ha aperto degli scenari non da poco, no? Sul piano così dei movimenti, dei piloti, eccetera. Questa prova di Rossi dimostra che comunque dal punto di vista della guida lui è sempre lo stesso, perché quello che ha fatto ieri obiettivamente ha fatto delle giocate, no, alla Drogba, quando dici, cioè hanno 33-34 anni ma questi giocano ancora come quando ne avevano 25, forse meglio perché hanno l'esperienza. E quindi questo dice delle cose chiare alla Ducati e al moto mondiale, che evidentemente senza poi Stoner dovrà in tutti i modi tenersi Valentino Rossi e fare in modo che abbia una moto competitiva, perché a questo punto l'anno prossimo l'anti-Lorenzo che diventa il padrone assoluto della baracca può essere soltanto Rossi, ecco, in pista e fuori, no, dal punto di vista cosiddetto mediatico. Certo. E per quel che riguarda i diritti, poi c'è stato questo movimento, bisogna vedere se già nel 2013 Sky la prenderà di già o aspetterà il 2014, se Mediaset. Sai che io ho la sensazione, io ho la sensazione che l'affare l'abbia fatto Mediaset. Io ho la sensazione che Valentino Rossi finirà a correre in MotoGP, in Superbike. Rivedremo il duello con Biaggi, poi ci sarà Melandri, poi magari altri seguiranno. Mentre a MotoGP, onestamente, senza questo grande personaggio, l'abbiamo detto molte volte nei giorni scorsi, è un po' come lo sci del dopotomba. Tu dici senza Valentino, certamente, sì, certo, però io non lo so, perché quello che ho visto ieri di Valentino mi fa pensare che lui voglia ancora restare in questo ambito, che comunque dal punto di vista tecnico è la Serie A rispetto alla Superbike, sicché io credo che il suo interesse, almeno parliamo dell'anno prossimo, ecco, del prossimo paio di anni, insomma. Su questo io tenderei a essere abbastanza certo, però sai, gli scenari cambiano sempre poi in maniera molto, molto rapida e fluida. Sono molto meno convinto che lui resterà in Ducati, ma questa insomma, è una verità che ci raccontiamo ormai da diverso tempo, perché non credo che sia in grado di dargli una moto sempre come quella di ieri. Sai, però l'idea invece di lui su una moto competitiva l'anno prossimo nella MotoGP con un bel duello con Lorenzo, credo che attiri anche lui. Questa è un'altra storia, infatti, naturalmente. Però è chiaro che la Ducati dovrà dare delle risposte nelle prossime gare. Ma io credo che compiere un miracolo in un mondo come questo, dove non sei riuscito a farlo in un anno e mezzo, in un mondo che è molto tecnologico, quindi sai, i miracoli nella tecnologia e nella scienza non avvengono da un giorno all'altro, o tu fai un progetto e quindi arrivi a creare qualcosa di importante nel corso del tempo, ma insomma io ho i miei dubbi, però può succedere tutto, può darsi anche che questo dia una scossa alla Ducati per seguire di più Valentino, anche se voglio dirti, io sono uno di quelli che non ha mai dato la colpa solo alla Moso, no? Perché no, sono due che non si piacciono, Alessandro, sono due che non si piacciono, sono due che non si piacciono e non si trovano bene insieme. Quanto alla possibilità di cambiare tutto nel giro di due settimane, vabbè, c'è chi crede alle favole, se arriva Harry Potter con la bacchetta magica magari sì, ma credo sia l'unica cosa possibile. Citavamo prima Di Matteo, paradossalmente nel calcio è più possibile, no? Perché comunque è una questione di uomini, e di un pallone, insomma è diverso. Qui c'è tecnologia, quando tu hai un gap di un secondo e te lo porti dietro da un anno e mezzo, come fai in due settimane, diciamo in un mese, quest'estate, a ridurlo a 5 decimi, 2 decimi? È impossibile, è impossibile, a meno di non voler credere per forza alle fiabe. Grazie Alessandro, grazie a te, grazie a voi. Grazie Alessandro Pasini. Torniamo e andiamo un po' di corsa, per la verità. Non voglio almeno oggi di approfondire la storia dei fischi all'inno nazionale ieri sera cantato da Risa, prima finale di Coppa Italia. Maleducazione senza, imperante senza confini, la considero soltanto questa. Cristian da Pescara. Cristian. Senta, sì. Eccomi. Mi dica. No, mi dica lei. Ecco, no, perché non la sentivo bene. Eccomi qua. Sarà una casualità, ma ci siamo trovati a parlare ieri, forse un anno e mezzo fa, riguardo al fatto di Valentino Rossi alla Ducati. Sì. Ricollegandomi proprio un attimo a quello, ridico un'altra volta le stesse cose. Sì. Secondo me, da appassionato e da motociclista che va in pista, non sono un pilota ma un appassionato, sì, Rossi ha solo bisogno di una moto non vincente, ma anche di una M1 clienti tipo quella di Dovizioso. Perché per il pilota la simbiosi con la moto, i paragoni calcistici non esistono, perché la moto è di tutt'altra cosa. Certo. Anche con una moto tipo la M1 clienti, dove lui sente la moto, riesce a dare il 150%, che è quello che è Valentino Rossi. Con la Ducati questo non sarà mai possibile. È un appassionato di moto, non un genio. Confermerà quello che ho detto io. No, ma lei ha ragione. Lei ha ragione, Cristian. Appassionato di moto lo sono anch'io. Ne abbiamo discusso per un anno e mezzo, insomma, con tanti esperti, con tanti appassionati di moto, con tanti piloti. È così. È un matrimonio che non funziona per caratteristiche tecniche. Quello tra Rossi e la Ducati, questo è evidente. Intanto Nadal ha vinto gli internazionali d'Italia battendo 2-0, 2-7-0 Djokovic, 7-5, 6-3. Quindi Nadal sale sul trono di Roma. Antonio da Milano. Che tristezza, sta brutta notizia, bruttissima. Ma io adoro Djokovic. Ma anch'io, l'ho detto prima, tifo Djokovic. Anche, non mi gira benissimo in questo periodo. Neanche a me. Anche allora, a me. No, anche perché le facce che fa Nadal è proprio arrogante. Vabbè, comunque. La chiamavo per un'altra cosa. Io voglio fare l'avvocato del diavolo. Prego, e farle, del Milan. E farle o farti, vabbè, siamo giovani, una domanda. Dimmi. Secondo te... non sarebbe De Laurentiis non avrebbe preferito andare in Champions League piuttosto di vincere la Coppa Italia? Bisogna chiedere a lui. No, io credo di no. Cioè, la Coppa Italia sotto l'aspetto economico la Champions League porta tanti quattrini. Però voglio dire, arrivi finalmente a toccare, ad alzare, ad abbracciare un trofeo che ti dà il senso di aver raggiunto un risultato. È la conclusione di un lavoro, se vogliamo, da questo punto di vista. La qualificazione alla Champions League arriverà l'anno prossimo, vediamo come lavorerà De Laurentiis. Io continuo a pensare che il Napoli sarà competitivo anche l'anno prossimo, appunto per quei primi tre posti. Vediamo quanto e quali posti. Grazie Antonio, Hermes da Bologna, poi facciamo un salto al giro. Hermes, dica. Buongiorno signor Gente, innanzitutto buongiorno. I complimenti. Grazie. Poi volevo chiederle perché Pepe non in nazionale, perché io non vedo degli esterni bravi come Pepe. Me lo sono domandato anch'io, Hermes. Mi sono domandato anch'io perché. Ma non per la giocata di ieri, proprio per. No, non c'entra niente ieri. Non c'entra niente. Pepe è stato convocato in nazionale molto spesso negli ultimi anni, nel recente passato. Ha giocato anche un mondiale. Dopo stagioni in cui mi facevo la stessa domanda al contrario, ma perché Pepe? Ecco, è reduce dalla miglior stagione della sua carriera, nettamente la miglior stagione della sua carriera per numero di gol, per apporto che ha dato alla squadra. È stato per lunghi tratti il trascinatore della Juventus insieme a Marchisio e a Vidal. Vi ricorderete la prima parte del campionato in cui segnavano praticamente soltanto questi tre. Ebbene, Prandelli gli ha preferito Giaccherini. Lo ha spiegato con motivazioni tattiche. Io resto comunque perplesso, perché convocare la riserva invece del titolare che ha giocato una grande stagione la trovo una mossa un po' così. Vedremo, speriamo che Prandelli abbia ragione, lo scopriremo presto comunque. Giro. Veicoli commerciali Citroën, dedicati a chi pedala tutto il giorno. Vi presenta Voci dal Giro. Io vi faccio subito la domanda per vincere il polsino di Ivan Basso. Rispondetevi SMS 349-238-6666. Chi ha vinto il primo Giro d'Italia? 1909. Il primo che risponde porta a casa il polsino di Ivan Basso. Con Pieragusto Stagi non abbiamo moltissimo tempo, ma è anche giorno di riposo d'altra parte. Vorrei lasciarti riposare in pace dopo tutta sta fatica, direttore. Beh, adesso non esageriamo. Non esageriamo. Dopo tutto questo freddo, più che la fatica. Sì, ne hai preso tanto. Comunque non è che siamo stati fortunati, sicuramente più fortunati dei corridori, perché siamo perlomeno in macchina al coperto, quindi... Oggi giorno di riposo attivo dopo due tappe di montagna che non hanno provocato la rivoluzione, ma d'altra parte non ce l'aspettavamo. Sì, però perlomeno nella tappa dei Pionderi ci siamo divertiti, si sono dati battaglia grazie ai Lampre, anzi grazie a Rabottini, questo ragazzo di 24 anni che lotta e si è buttato per 150 km all'attacco. Ma devo dire, per la condotta della Lampre, che ha lanciato la seconda punta a Cunego e comunque ha messo un po' di pepe, ha messo un po' di gusto ad una frazione che poteva essere anche ancora nuovamente ingessata, invece così non è stato. È stato divertente per noi italiani, perché abbiamo applaudito una bella vittoria di questo 24enne abruzzese della Farnese Vini. Abbiamo comunque assistito alla cavalcata di Cunego, che è stato per molto tempo in maglia rosa virtuale, e poi abbiamo visto appunto la stoccata di Johan Rodriguez, che ha messo un pochino, non tanto, in difficoltà Scarponi e Basso, che però si sono difesi bene, perché quello di sicuro non è il terreno ideale, certo, per Basso. Lui era forse un po' di più per Scarponi, che però al momento guarda anche lui le grandi vette, e ci sono veramente. Arrivano dopo domani, domani altra tappa per velocisti, poi finalmente delle tappe che speriamo siano, non dico indimenticabili perché è troppo, però almeno che diano un senso a queste tre settimane nelle quali finora non ci siamo divertiti poi tantissimo. Grazie per Augusto Staggio, che ritroveremo naturalmente più tardi. Mattia da Treviso ha vinto il polsino autografato da Ivan Basso rispondendo Luigi Ganna, prima maglia rosa nel 1909. Franco Piantanida in redazione, Matteo Comes in regia. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao a tutti.